Buona serata. Vi chiedo subito un primo intervento per capire come procedere. È il secondo di tre incontri. Abbiamo cercato di dare a questi incontri il senso di un cammino condiviso. Volevo chiedervi quanti di voi erano presenti la volta scorsa. Quasi tutti, direi. Va bene, perfetto. Allora, possiamo riprendere da lì. Io faccio soltanto un breve riassunto per titoli di ciò che ci siamo detti la volta scorsa, in modo da riprendere i concetti fondamentali, ricreare quell'atmosfera di condivisione e di partecipazione che è nata tra di noi la volta passata, e per lanciare il discorso di oggi. Un discorso di oggi che dovrebbe essere molto legato come quello... Sì. Se riuscite ad alzarmelo un po' ancora? Non si sente bene in fondo, eh? Proviamo. Forse così è meglio. Va meglio? Ancora un po'? Forse? Se riuscite ad alzarlo? Io comunque... cerco di tenerlo più vicino possibile. Dicevo, il discorso sia di questa sera che della prossima dovrebbe essere molto operativo, quindi rispondere alla domanda come si fa. Partiamo da una cornice, da alcune idee che abbiamo provato a condividere, che sono partite da questa riflessione. Cos'è la sessualità? Non è chiaro, non lo sappiamo. Possiamo provare a parlarne, ma ci sfugge sempre un po'. E dunque abbiamo usato una parola che non è molto gradita alla scienza, ma credo che sia invece parte delle nostre vite, la parola mistero. In ogni nostra carezza è contenuta una quota di mistero. Ed esplorare questo mistero è forse ciò che ci appassiona di più delle carezze, perché così non sono troppo ripetitive e non ci portano sempre a una sponda già conosciuta. In realtà, essendo misteriose, sono anche un po' rischiose. La volta scorsa abbiamo parlato spesso dei rischi delle carezze, dei rischi della nostra sessualità. Perché è misteriosa? Beh, per quello che capisce la scienza, perché è già difficile studiarla, essendo una dimensione della nostra esperienza molto pervasiva. Sono tre parole difficili, ma ne abbiamo tradotte. È uno dei modi di stare nella vita, di stare nel mondo, che è sempre presente in ogni nostro gesto. Abbiamo però cercato di fare un distinguo, cioè di non accettare l'idea che, essendo la sessualità così presente nella nostra vita, sia anche la spiegazione di tutti i nostri gesti. Idea che è stata percorsa da alcuni studiosi, da alcuni teorici. Forse Freud si era affezionato un po' a questa idea, anche se poi nel corso della sua vita di studioso l'ha messa in discussione e ha concluso le sue ricerche con un'idea un po' diversa, un po' più complessa. E quindi avevamo fatto questo accordo: la sessualità sta in ogni gesto, in ogni sguardo, in ogni presenza, in ogni incontro, ma non è vero che ogni gesto, ogni sguardo, ogni incontro sono soltanto sessualità. Se è così pervasiva, è difficile studiarla, e noi abbiamo usato due sistemi per studiarla. Il primo è dividerla in parti. Abbiamo fatto a pezzi la sessualità, e le abbiamo chiamate dimensioni. Ricordate, la dimensione riproduttiva, la dimensione del gioco e la dimensione sociale sono i tre pezzi che abbiamo studiato insieme la volta scorsa. Tra poco affronteremo ancora la dimensione del significato, la dimensione della storia e la dimensione procreativa, quando noi facciamo un bambino. Queste parti sono arbitrarie, abbiamo deciso noi di dividerla così, perché ci era utile, non perché è vero che la sessualità nella nostra mente o nel nostro cervello ha questa divisione. rispondendo già a uno dei primi problemi. Tutti la sessualità la conosciamo, ma facciamo tanta fatica a parlarne. E quando i nostri figli ci chiedono qualcosa sul sesso, non sappiamo più tanto che dire. Questo è un primo aiuto, dividerla in parti ci guida nel discorso, anche se dobbiamo dirlo ai bambini e agli adolescenti, che è soltanto un modo di comodo per parlarne, perché poi ogni carezza è un po' misteriosa e dobbiamo rischiarla, dobbiamo essere capaci di mettere qualcosa di nostro, di spenderci, di impegnarci. E poi abbiamo usato l'altro sistema, l'altro trucco per poterne parlare, ed è considerare la sessualità sempre in movimento e provare a seguire le tracce di questo movimento. Un primo movimento, ricordate, è quello che ha fatto la sessualità nella storia della vita, proprio nella storia della vita nel mondo. È incominciata da lontano, quando per la prima volta due cellule per riprodursi si sono prima divise a metà e poi rimescolate tra di loro. Ecco, questo è l'inizio del sesso, che viene da una parola latina, secatus, diviso. Ciò che si unisce prima si divide, prima si fa parte. E poi è andata avanti. E ha attraversato tutta la storia della vita, fino a diventare l'espressione così speciale delle nostre vite. Questo movimento, che con una parola difficile avevamo chiamato filogenesi, cioè storia dell'evoluzione della vita, lo abbiamo tenuto presente perché ci è servito per parlare di Carlotta in discoteca. Ricordate Carlotta che è rimasta incinta? Perché è stata spinta a fare sesso da una forma molto antica di sessualità, la forma che spinge tutti noi a riprodurci, senza sentire ragioni. Lei di solito sapeva tutto e aveva buone capacità per prendere decisioni, ma avendo bevuto, essendosi fatta di sostanze e avendo ballato tutta la sera, aveva alterato in modo importante la chimica del suo cervello, fino a creare una disconnessione tra le parti più nuove, dove Carlotta pensa, ragiona, prende decisioni, organizza le sue azioni, le orienta degli obiettivi buoni, giusti, belli, dalla parte più antica, la parte dove siamo istinto, siamo una forza irrefrenabile che ci spinge a fare ciò che da sempre dobbiamo fare, che è badare a conservare la specie, e quindi riprodurci. Ecco, mancando il collegamento, la connessione, facciamo di qua, mancando il collegamento, che cos'è successo? Che la parte più antica ha preso il sopravvento, lei non sapeva nulla di ciò che stava accadendo in quel momento, se non da lontano, una vaga memoria, e ha detto, vi ricordate, cosa c'entra con me ciò che mi è successo? Non ero io, nemmeno ci siamo detti il nome con quel ragazzo che mi ha messo incinta. Ecco, questo movimento antico, vedete che ritorna anche nelle nostre carezze, ritorna tra le nostre braccia. Per cui dobbiamo conoscerlo e saperne parlare. Un secondo movimento della sessualità che abbiamo provato a cogliere nella nostra conversazione è stato il movimento nella nostra vita, da quando siamo piccini, appena venuti al mondo, fino a quando diventiamo vecchi e poi moriamo. Sempre la sessualità ci accompagna, fino all'ultimo. Mi aveva molto toccato il racconto di una collega, di un'educatrice. Parlavamo di sessualità dei vecchi, degli anziani, e lei diceva, mi è successa una cosa la settimana scorsa, e piangeva mentre lo raccontava perché era ancora commossa, e era molto suo zio, e suo zio era vecchio, aveva più di 90 anni, e poco prima di andare in coma e poi morire, molto poche ore dopo, ha preso un fazzoletto, si è pulito le labbra e poi ha preso sua moglie per mano e le ha detto, dammi un basino. E si è fatto dare quest'ultimo bacio sul quale ha perso conoscenza. Ecco. E questo è stato un bacio molto sessuale, non un bacio di tenerezza. Ha baciato la sua donna, sua moglie, l'ultima volta. E lei lo raccontava così, turbata e commossa. Perché, sì, non hanno fatto l'amore nel senso tradizionale, ma hanno proprio fatto l'amore mentre lui stava per morire con quel bacio. E quindi tutta la storia della nostra vita, da quando siamo piccini all'ultimo respiro, abbiamo la sessualità che ci accompagna e ci dice di noi, ci fa sapere di noi e lo fa sapere agli altri. Secondo movimento. E poi il terzo movimento. Il movimento che costruisce, accompagna e dà senso a ogni gesto. È il movimento di ogni singola carezza, di ogni singolo sguardo, di ogni singolo bacio. Tenere in mente questi tre movimenti è importante per capire che ci sta capitando, che stiamo facendo, e anche per raccontare a chi cresce come questa dimensione fondamentale del nostro essere va letta e capita in tanti modi diversi, come espressione della vita, come racconto delle nostre vite e come movimento di ogni singolo gesto, come intenzione che mettiamo nelle carezze. E così con questi due trucchi, perché poi sono sempre trucchi, siamo davanti a un mistero, con questi due trucchi abbiamo esplorato le dimensioni. Quella riproduttiva, che vi ricordavo, abbiamo studiato con la storia di Carlotta, e di cui abbiamo cercato di parlare bene. Abbiamo detto perché succeda a poche ragazze e a pochi ragazzi di iniziare una vita mentre nemmeno sanno chi sono e che stanno facendo. Dobbiamo far conoscere loro la parte antica che abita nella loro storia, nella loro persona, quella che abbiamo chiamato il serpente, perché ha proprio le caratteristiche anche anatomiche e funzionali del cervello dei rettili, che si è conservato con l'evoluzione ed è arrivato fino a noi per farci fare cose molto buone, salvarci la vita, riprodurre la specie, ma ovviamente non sufficienti per dire che sono cose umane. Presentare il serpente, farglielo conoscere, cercando di non spiritualizzare troppo la nostra educazione sessuale, di non mentalizzare troppo il nostro discorso, di non farlo diventare quasi astratto e lontano dalla forza che ci spinge ad agire, da ciò che muove il nostro incontro verso l'altro. Carlotta era una brava ragazza, ve lo ricordate? Sapeva tutto, si impegnava, era la prima della classe, faceva volontariato. Ma non aveva fatto capire che anche lei era fatta di carne e di una carne palpitante che non sente ragioni. E questo è il nostro atto mancato. Un po' di quella gravidanza è causata da noi, che abbiamo fatto un'educazione sessuale troppo alta, dimentichi di dove si realizzano le carezze, nel corpo, nei suoi umori, nei suoi odori, nel suo calore, non nelle parole, non nei ragionamenti, non nei discorsi. E poi abbiamo detto parliamone anche bene del serpente, abbiamo visto quanto è assurdo fare sesso o fare l'amore soltanto con uno che ragiona, abbiamo detto fare l'amore con la neocorteccia è proprio una cattiva esperienza. Se uno continua a chiedervi, dimmi come vuoi che ti accarezzi, dimmi come sto andando, vuoi che faccia qualcosa di diverso? Dopo un po' vi scocciate e dite, ma tu prendimi e poi se qualcosa non va io te lo faccio sapere. Dunque la parte calda, istintiva, deve essere presente nei nostri incontri. Poi abbiamo lasciato però questa dimensione riproduttiva da parte, vi ricordate? Perché abbiamo visto che non procede in parallelo nella storia della vita e nelle nostre storie. Nelle nostre storie si incomincia giocando molto lontani dal progetto riproduttivo. Devono passare un bel po' di anni. E allora abbiamo imboccato quest'altra via, la via del gioco, e abbiamo raccontato il gioco dei bambini. Abbiamo visto che i bambini giocano, si toccano e imparano. Imparano di sé, imparano degli altri. E abbiamo distinto tre modi di toccarsi. Uno buono, bello, utile, vantaggioso, accompagnato da un'emozione positiva, piacevole. I bimbi quando si toccano così stanno bene, sono divertiti, goduti, vispi, allegri. E glielo lasciamo fare. L'unica cosa, avevamo visto, pian piano devono imparare a farlo per conto proprio. Quindi a non mandare, mentre giocano col loro corpo, segnali sessuali agli altri, perché diventano impegnativi per gli altri, non sanno bene dove sistemarli e cosa farsene. Quindi un po' per volta si impara a rendere privato il comportamento sessuale. Abbiamo visto che qualche bambino impara subito, qualcuno ci impiega un po' più di tempo e lo accompagniamo. E quando proprio non impara perché ha una difficoltà nell'uso della mente, glielo insegniamo, deve diventare una parte del nostro progetto educativo speciale. Ok? Tutti gli altri sono andati avanti, hanno imparato, e qualcuno invece in prima elementare, in seconda, in quinta, ancora si tocca in classe senza quasi far caso che ci sono altri bambini. Ha bisogno di aiuto, deve imparare. E dunque metteremo in conto, non che non deve toccarsi, ma che dobbiamo insegnargli a farlo in privato come tutti gli altri bambini. Poi abbiamo visto che c'è un altro modo per toccarsi, che è il modo di chi è annoiato, triste, arrabbiato o spaventato. E toccarsi diventa un modo per consolarsi. Abbiamo visto che un po' consola toccarsi, come tutte le esperienze che danno un po' di piacere, ma consola poco e consola male, intanto snaturando il piacere del gioco sessuale, perché è un piacere che viene messo al servizio di una consolazione. E poi perché rischia di generare dipendenza, perché un po' per volta noi non possiamo farne a meno. Abbiamo visto che quando un bambino e una bambina si toccano in questo modo, non dobbiamo disturbare la loro sessualità, dobbiamo guardarcene bene, dell'entrare nella dimensione sessuale di quel gioco. Dobbiamo semplicemente preoccuparci del perché sono tristi, arrabbiati, spaventati o annoiati. E normalmente, dando una buona risposta al loro malessere, ritornano a giocare per il piacere di un gioco sessuale e a non doversi consolare in un meccanismo che diventa una vera e propria dipendenza. E poi abbiamo visto che c'è un terzo modo molto triste, molto doloroso. Ricordate la storia di quella nonna che vi ho raccontato, di quella nipotina, che le ha detto: nonna, fammi la foto, mentre lei le stava facendo il bagnetto. Ecco, quella è la storia di un abuso sessuale grave subito da una bimba in casa sua, probabilmente dal fidanzato della mamma. E qui abbiamo detto invece bisogna intervenire immediatamente, bisogna intervenire per proteggere proprio la sessualità di quella bambina o di quei bambini abusati. Tre modi, tre chiavi di lettura, tre sguardi che intercettiamo fugacemente nei nostri figli, o tre modi di manifestare il loro benessere o il loro malessere, che ci devono dare subito delle indicazioni e una linea guida. Se stai bene, impara soltanto a farlo per conto tuo. Se stai male, cerchiamo di risolvere il tuo malessere. Se invece sei stato abusato, protezione immediata. Immediata vuol dire nelle prossime due ore. Dobbiamo subito intervenire per fare qualche cosa. Poi abbiamo visto che i bambini giocano anche con gli altri bambini. È un gioco esplorativo, è un gioco sessuale, ed è un gioco che va un po' protetto. Da che cosa? Dal rischio di violenze tra bambini. Ci sono dei bambini più grandi, a volte dei bambini più piccoli, solo più tosti di quelli più grandi, che pretendono sesso dai loro fratelli, dai loro amici, dai loro compagni di gioco, e bambini che subiscono queste pretese, che in qualche modo sono un po' abusati, ma soprattutto violati, costretti. E questo capita anche nelle stanze dei fratelli. Non che tutti i fratelli corrano questo rischio, però dobbiamo in qualche modo discretamente farcene un'idea, avere una sorveglianza da distante che però protegga il figlio più fragile o il compagno di giochi più fragile o il compagno di classe più fragile, perché questi giochi non diventino una cattiva esperienza. Se invece sono giocati tra pari, e pari non è una questione di età, dicevamo, pari è una questione di fase della vita, in cui stiamo vivendo più o meno la stessa esperienza, glieli lasciamo giocare proteggendoli un po' da qualche rischio di giochi giocati male. Perché ogni tanto esagerano nell'esplorazione e si fanno proprio male fisicamente. È raro, però capita. E quindi uno sguardo anche in questo senso. E poi abbiamo parlato dell'ultimo gioco, il gioco forse più difficile da dire. Il gioco con gli adulti, i bimbi che giocano la loro sessualità con noi adulti. E su questo c'è tutto l'equivoco della sessualità raccontata da Freud lì. C'è stato proprio probabilmente un passo errato, quando per spiegare la sessualità dei bambini Freud ha usato la sessualità dei grandi, degli adulti. Noi abbiamo cercato la volta scorsa di guardare la sessualità dei bambini dalla prospettiva dei bambini e non dalla prospettiva dei grandi. E abbiamo visto una cosa molto semplice, riletta così. Abbiamo visto che i bambini mandano segnali sessuali a tutti noi e si aspettano come ritorno soltanto apprezzamento, riconoscimento e cure, protezione. Si aspettano cioè che ci prendiamo cura della loro sessualità, ma non si aspettano mai, per nessuna ragione, una risposta sessuale. Ma non mettere loro le mani addosso, questo è facile da capire, anche uno sguardo sessuale appoggiato su un adolescente, appoggiato su un bambino, su una bambina, sono già un abuso, sono già una violazione del loro cuore, della loro anima. Abbiamo visto che c'è probabilmente un sistema biologico che ci fa funzionare bene. Lo abbiamo visto tra adulti, ricordate quando vi raccontavo la volta passata di quando un ginecologo visita una donna o di quando un'infermiera si prende cura di un ragazzo in ospedale. Ci sono fortissimi segnali sessuali attivi in quel momento che non attivano la sessualità di chi si prende cura. E così abbiamo pensato che un bambino sia un segnale vivente che ci dice prenditi cura di me, per come è fatto, per come lo leggiamo, per come lo riconosciamo, e dunque abbia il potere di mandarci segnali sessuali bloccando la nostra sessualità. Non si attiva e non gli ritorna addosso. Questo è il motivo per cui noi possiamo avere molta intimità con i nostri bimbi senza fare mai loro dei danni, anche se basta uno sguardo per danneggiarli. E allora dobbiamo essere molto consapevoli di questo. Quando un bambino ci sta mandando un segnale che non riusciamo più a gestire, dobbiamo tenerlo lontano, dobbiamo allontanarci perché gli faremmo del male. È raro, può capitare. E così abbiamo poi detto quella frase molto forte, molto difficile da portare a casa: tutti i bambini devono poter fare l'amore con mamma e papà. Dove fare l'amore non è più fare sesso con loro, ma è rendere l'amore un'esperienza incarnata. Se l'amore non viene fatto, i bambini non lo conoscono. Potete dirglielo per tutta la vita, ma non sapranno mai che li amiamo. Dobbiamo proprio farlo. L'unico luogo per sapere l'amore è il corpo, è l'incarnazione. È una storia più grande della nostra, però per farci sapere l'amore, l'amore si è fatto carne. E noi per far sapere l'amore ai nostri figli dobbiamo prenderli in braccio, dobbiamo fargli le coccole, dobbiamo pacioccarli un po', se no loro non lo sanno che gli vogliamo bene, lo teorizzano, ci ragionano su, ma è triste. Quando chiedete a una persona, ti hanno voluto bene papà e mamma? E vedete che incomincia a pensare, a fare un ragionamento, poi dice sì, con tutto quello che hanno fatto per me, dice no, non è questo. È vero, questo è un buon riconoscimento, ma non è la stessa cosa che essere stati amati. È così, tranquilli, che loro mandano segnali. E noi rispondiamo bene, con l'amore non col sesso, possono avvicinarsi e vivere l'esperienza incarnata dell'amore. E anche sentirsi riconosciuti come maschi, come femmine, fare le loro prove e avere i loro confini, nel senso che quando loro esagerano noi li fermiamo e diciamo no, così. Questo a papà lo fa la mamma, questo la mamma lo fa papà. E così pian piano sanno come stare. Questo abbiamo detto dei bimbi. E poi adesso proveremo a tradurlo anche in risposta alle loro domande. E poi abbiamo iniziato un altro racconto, e con questo concludo il riassunto della puntata precedente. Abbiamo iniziato il racconto del gioco tra ragazzi più grandi. Abbiamo lasciato i bambini. Abbiamo detto lasciate in pace i bambini, che non devono mettere insieme tutte queste cose. Hanno un cervello che procede in parallelo. I bambini amano, giocano, imparano, si toccano, toccano gli altri, si innamorano, costruiscono coppie, sciolgono coppie, ma non devono farlo con la stessa persona. Sarà poi la preadolescenza e l'adolescenza che lancerà il programma e dirà adesso metti insieme tutto questo. È proprio una sessualità che non è ancora intera e non deve essere intera, se no sarebbe impraticabile per il cervello di un bambino. Ma adesso il gioco si fa duro, diventa più difficile. E allora abbiamo raccontato la storia di Renzo e Lucia, vi ricordate quei due che girano nell'intervallo intorno alla stessa macchinetta del caffè, si piacciono, poi lui si fa avanti e poi lei ci sta e va a prenderla con la Vespa e la porta in quel prato dove c'è il ciliegio fiorito. E lì si scambiano le loro carezze. Sono due ragazzi prudenti che sanno tutto quello che devono sapere e sono due ragazzi slow, col sesso che va piano, che va lento. Ok, ci sono quelli che bruciano tutto in una volta e loro invece se la prendono con gusto, lo assaporano. Per cui la prima volta non hanno già fatto penetrazione coito, ok? Ma abbiamo ricordato la meraviglia di quelle carezze, perché tutti più o meno ne portiamo qualcuna nella memoria. Tre grandi rischi in quel bellissimo gioco, ricordate, una gravidanza al momento sbagliato della vita, una malattia trasmessa sessualmente, ma di questo non abbiamo parlato un granché, e poi invece abbiamo parlato un po' più a fondo delle ferite nell'anima, perché mettersi nelle mani di un'altra persona è un grande rischio, anche solo per giocare. Anche se decidiamo che non iniziare una relazione, di non fare una storia, di non sposarci, e quindi è anche soltanto un amore passeggero, ma mettersi nelle mani è tanto pericoloso. Ricordate la storia di quella ragazza che è diventata anoressica dopo essersi messa così tanto nelle mani di un altro e poi essere stata così tanto ferita da quella frase sciocca: è stato bellissimo, dimagrisci soltanto un po'. Poi però c'è la grande novità. Il gioco, che tutti continueremo a giocare tutta la vita, non ci basta più. Ma non ci basta per come siamo fatti, non perché ce l'hanno spiegato al catechismo o a scuola o in famiglia, ok? Tutte queste buone notizie sono il tentativo di darci notizia su che cosa è già scritto nella nostra persona. È che giocare il sesso non basta. Ok? Non c'è bisogno che lo dica la mamma, non c'è bisogno che ce lo dica la nostra ragazza, non c'è bisogno che ce lo dica il parroco. Giocare il sesso non basta al nostro cervello. Stiamo male dopo un po'. Dobbiamo sempre cambiare. Dobbiamo trovare sempre giochi nuovi. Ma non bastano lo stesso. Dobbiamo rischiare una cosa nuova, il legame. Ricordate, avevamo parlato del legame e avevamo raccontato il legame con la storia di un ritorno, perché ci sono dei legami un po' pesanti, sono quelli che non ci lasciano mai andare via. Invece i legami sani, belli, sono quelli che prevedono che ogni mattina si parta e si vada nel mondo, senza neanche ben sapere cosa succederà e come torneremo. Ma il legame si fa sentire alla sera, quando vogliamo tornare a casa. Ha ricordato la storia di Ulisse, del suo ritorno, no? Travagliato, pieno di distrazioni, come sono spesso i nostri ritorni a casa. Ma alla fine torniamo, per guadagnare che cosa? Per guadagnare la magia dell'intimità. Essere intimi è più che far sesso, e far sesso dentro l'intimità sconvolge il piano e porta emozioni e sentimenti nuovi. È un guadagno rischioso. Ricordate cosa si rischia? Si rischia la libertà. E qualcuno di noi è molto sensibile, per cui dice: io gioco e basta. No, non vendo la mia libertà a nessuno. Qualcuno dice: a nessuno sì, ma a te forse. E poi pian piano, continuando a tornare a giocare con voi, finisce che si lega a voi e rinuncia alla sua libertà, a una quota della sua libertà, perché? Perché scopre l'intimità con voi. E poi questa intimità può diventare una relazione che si stabilizza, quella che noi chiamiamo una coppia. E qui abbiamo lasciato Renzo e Lucia la volta scorsa, ricordate? Eravamo arrivati più o meno a questo punto della storia. Adesso, con poche parole, io porto a conclusione questa prima mappa su cui abbiamo provato a muoverci la volta scorsa. E poi incominciamo a farci domande pratiche del tipo: d'accordo, se volessimo usare questa mappa e dovessimo rispondere alle domande operative, come potrebbe aiutarci? Proveremo a rispondere per esempio alla domanda: quando fare educazione sessuale? Chi la deve fare? In che modo? Parlando di che cosa? E proviamo a vederlo sulle diverse età. Ci facciamo fare le domande direttamente dai bambini, dai ragazzi, dagli adolescenti e insieme proviamo a rispondere. Prendiamo le parti che abbiamo preparato e vediamo come ci aiutano a trovare delle risposte. Questo è il lavoro di questa sera. Vi siete ritrovati nel discorso della volta scorsa? Io l'ho ripreso perché così, insomma, adesso ce l'abbiamo tutto disponibile. Prendiamo Renzo e Lucia. Renzo e Lucia adesso si sono sposati. Sembra strano. Vanno a vivere insieme di solito. Loro si sono sposati. E si sono sposati persino in chiesa. Quindi hanno fatto proprio una scelta. Ma è bello questo. No, ogni tanto la gente si lamenta, più nessuno si sposa in chiesa. Beh, si potrebbe anche pensare che finalmente qualcuno si sposa in chiesa apposta, no? Invece che tanto perché dove ci si sposa? Boh, in chiesa, no? C'è un altro posto. Invece sì che c'è un altro posto. C'è anche che non ci si sposa affatto oggi, no? E allora forse diventa un'idea, un progetto. Vabbè, poi c'è sempre che si sposa in chiesa perché sennò chi lo spiega alla nonna, però, insomma, è un'altra questione. No, Renzo e Lucia si sono proprio sposati in chiesa e hanno il loro progetto. Hanno nella memoria le loro carezze, ogni tanto tornano sotto il loro ciliegio, perché è un prato che non dimenticano, ma adesso hanno la casa, hanno le loro due stanze. Andate, fate un giro all'IKEA, intanto non si fa pubblicità perché ci andiamo tutti. E finalmente sono insieme, per cui hanno voglia di giocare dentro un legame con la loro intimità, persino una casa. Però succede qualche cosa di imprevisto. Renzo è un romantico, uno degli ultimi romantici. Perché è un romantico? Perché adora sentire il rumore dei passi di Lucia. Perché per lui quello è il segno dell'intimità, è il segno che Lucia è lì con lui. E Lucia guarda Renzo e gli dice: Renzo, sei contento? Renzo è contento perché c'è Lucia, perché ha un lavoro, perché sta guardando la partita, perché si sta bevendo una birra fresca, e dopo una giornata sta proprio bene. Dice: ma sei proprio contento? Sì, Lucia, sono proprio contento, vieni qua. E lei non se lo fa ripetere e si fa fare una coccola. Però Lucia è ostinata, come a volte sono le donne, e quindi dopo un po' torna e dice: ma Renzo, ma tu sei contento davvero? Renzo ha un brivido freddo che corre lungo la schiena perché capisce che c'è un problema non risolto. E dice: sì, io sono contento, ma forse tu no. E lei dice: ma no, no, anch'io. Allora Renzo si alza, va da Lucia e dice: ma cos'hai, Lucia? Niente, non ho detto niente. Sapete com'è? Non dice niente. E vabbè. E questa sera finisce così. Poi passa qualche giorno e Lucia da Renzo dice: Renzo, ma tu sei contento? E Renzo gli dice: siediti qua che dobbiamo parlare. No? Ovviamente c'è un pezzo che non va. Però Renzo e Lucia fanno fatica a fare questo discorso. Lucia dice: ma se io non so neanche come dirtelo. Dice: dimmelo come sai, che noi parliamo, si vogliono bene davvero. Dice: ma guarda, forse è solo una questione di parole, no? Tu mi dici: Lucia, vieni con me, oppure mi dici: facciamo sesso, o se hai bevuto un po' mi dici: vieni, ci facciamo una scopata. Allora, chiarisco, dice Lucia a Renzo, a me va benissimo, continua a chiedermelo, continua a dirmelo, mi piace, però c'è una cosa, non mi dici mai: facciamo l'amore? Perché non mi dici: facciamo l'amore? Renzo dice: ma davvero? Non lo so, te lo dico stasera. Lei dice: no, così non vale, perché bisogna farlo spontaneamente, questo è un problema che non abbiamo risolto. E allora adesso tutti e due sono ragazzi in gamba, sono dentro un problema, e questo problema ce l'hanno per una ragione molto più ampia di loro due, perché c'è una comunità che non è capace di fare questo discorso con i ragazzi. Non è neanche capace di fare questo discorso con gli sposi. Loro sono sposati in chiesa, quindi hanno fatto un percorso di preparazione al loro matrimonio. E sono lì con lo stesso imbarazzo di prima, non sanno decidere se una coppia di sposi cristiani può fare sesso, può fare l'amore, se c'è una differenza, se è tutta la stessa cosa, se è un problema di parole, se non lo è, eccetera. Sanno un mucchio di cose sul fare l'amore. Hanno un mucchio di buone idee, di buone intenzioni, di buone regole, ma non lo sanno raccontare. Sono un po' in difficoltà e non sanno uscirne. Ma non è colpa loro. È che noi non ne sappiamo parlare. Se vogliamo dare una mano, beh, intanto cominciamo a mettere questo discorso in tutti i corsi per i fidanzati. Cioè, facciamoci la domanda che poi si fanno Renzo e Lucia a casa. Quando mi chiedi di far sesso, mi stai chiedendo la stessa cosa di quando mi chiedi di far l'amore? Se sì, sono sinonimi. Va bene, se non sono sinonimi e qualche emozione è un po' diversa, che differenza c'è? Ok? Proviamo a rispondere. Tra l'altro, poi ci si imboccano anche delle strade pericolose, cosa è meglio? Viene da dire dipende. Cioè, adesso cerchiamo di capire perché dipende. Quindi, prenderla sull'etica pura e dire c'è una cosa migliore, una cosa peggiore, non è che funziona tanto. Ok? E allora proviamo a starci dentro. Allora, io adesso sono imbarazzato con voi perché non so mica spiegarvelo. E faccio una cosa molto semplice che mi aiuta tutte le volte che sono in difficoltà. Quando non so più ragionare su qualche cosa, riparto dal corpo. E chiedo al corpo di dirmi le sue cose, che sono fatte di poche parole, anzi addirittura solo di sensazioni, ma sono le più chiare. È come quando avete un bimbo piccolo, che gli parlate, sì, gli dite le cose carine, ma tutto è fondato nel suo corpo che incontra il vostro corpo. Lì sapete, sapete di lui, sapete come sta, sapete cosa fargli, cosa non fargli, e lui così sa di voi. Allora torniamo al corpo, vediamo se il corpo ci aiuta. Quando Lucia passa davanti a Renzo, lo fa apposta, gli passa davanti, bellissima, e si fa desiderare. Ed è come gli dicesse, lo vedi il mio corpo, guarda quanto è bello, prendilo. Tranquilla, perché Renzo per prendere il corpo di Lucia deve mettere le mani addosso. E così la tocca. E mentre lui prende piacere dal corpo di Lucia, restituisce piacere al corpo di Lucia. E così anche Lucia fa Renzo. Guardate che le carezze sono state inventate bene. Mentre uno tocca, raccoglie piacere e ne lascia. Qualche volta si fa diversamente perché si è proprio cattivi. No, si prende solo piacere dimenticandosi che c'è una persona. Ma se appena ci ricordiamo che stiamo toccando una persona, la carezza è già pronta per questo. E quelle carezze fanno star bene Renzo, sono una festa, sono la festa del loro corpo. La sensazione però è che questo far sesso, questo giocare il sesso con il corpo, non sia l'unica cosa che il corpo può fare. Il corpo lo possiamo anche pensare in un altro modo, sentire in un altro modo. Possiamo pensarlo come un luogo dove possiamo invitarci. Se usassimo le parole, in realtà usiamo gli occhi, la bocca, le mani. Ma se usassimo le parole potremmo dire, Renzo, mentre mi prendi e fai festa col mio corpo, vieni a cercarmi, io mi faccio trovare da te, vieni da me. E Renzo potrebbe rispondere, Lucia, sono già da te, sono tra le tue gambe, dov'altro devo venire? E Lucia potrebbe dirgli, Renzo, sei solo tra le mie gambe, è già un bel posto, mi stai dando un mucchio di piacere, ma è poco, se vuoi io ti faccio venire proprio da me. E Renzo è turbato da questo invito, che tra l'altro sto raccontando al femminile, ma Renzo può dire a Lucia, vieni da me, mi faccio trovare da te, vieni a cercarmi. Puoi trovarmi dove io sono amore, e questa volta sono amore con te. E se tu vieni che sei amore, noi siamo amore insieme. E questo amore lo siamo nel corpo, quindi lo facciamo, lo rendiamo un fatto, non è più un pensiero. Non è più una parola, non è più un ragionamento, non è più uno stato della mente, diventa un fatto. Diventa la certezza che noi siamo amore insieme. E mentre siamo amore, tu sei prezioso, speciale, unico, irripetibile. Il tuo valore tra le mie braccia, tra le mie gambe è inestimabile. Non ha misura. E se mentre sei così sei vero, e sei liberamente da me perché ti ho invitato, tu da lì non vuoi più andare via, perché hai trovato ciò che cercavi. Noi questo cerchiamo. Corriamo tutto il giorno per trovare questo. In quasi tutti i libri che raccontano la sapienza, c'è un luogo dove un profeta o dove qualcuno che ha qualcosa di molto importante da dire si fa vedere davvero. E succede sempre che chi lo vede davvero dice: adesso maestro restiamo qua, non andiamo più via, perché abbiamo trovato. Ecco, noi abbiamo abbiamo pochi istanti per sapere qual è la luce della verità nell'amore. E lo troviamo quando uno ci invita, dove c'è davvero lui, e ci invita nel suo corpo, non in un posto astratto, non nelle sue parole. E lì sappiamo che non vorremmo più andare via. Sappiamo che abbiamo trovato. E poi andiamo via lo stesso, perché il sonno scioglie l'abbraccio, o la fretta, o il lavoro, o un bambino che piange. E quindi ci dobbiamo salutare, dice: no, ma io volevo stare qua. Non avevo più bisogno di cercare. E poi finisce. Però rimane questa memoria. Rimane la memoria di un incontro vero. Guardate, io ho cercato di non usare amare l'altro, che è bello, ma è ancora oltre, è ancora un'altra cosa. Io mi limiterei a essere l'amore insieme e a renderlo un fatto. Perché l'amare poi rischia di diventare uno scambio: quanto ami tu me, quanto io amo te, cosa ti devo, cosa mi devi ancora. Essere l'amore. Non so se mentre provavo a dire maldestramente con le parole qualche cosa che spero ognuno di noi abbia incontrato, almeno tra le braccia di sua mamma, nella forma non sessuale, o invece nella vigna dove ci scambiamo le nostre carezze, come dice il Cantico dei Cantici. Quindi tra le braccia di un compagno, di una compagna. Beh, mentre dicevo queste parole difficili, non so se avete avuto la sensazione che in tutto ciò c'è un gran rischio. Che farsi trovare così davvero da un altro, essendoci spogliati due volte, una volta togliendoci i vestiti, e un'altra togliendo tutte le barriere e invitando davvero dove noi siamo l'amore, beh, basta veramente uno sguardo di traverso, basta una parola di troppo, basta una carezza, e noi siamo feriti a morte. È pericolosissimo star così vicini a un'altra persona, che poi alla fine è sempre un po' uno straniero, è sempre uno che viene da una giornata e non sappiamo cosa ha fatto, chi ha incontrato, come ci ha raccontati, come ci ha trattati. Però questo è il rischio dell'amore. Ed è un rischio bellissimo se ci possiamo fidare. Per fidarci dobbiamo prima fidarci tanto di noi stessi. E poi possiamo giocarcela così. Mi viene da dire allora che due sposi, anche due sposi cristiani, non possono permettersi di fare l'amore tutte le volte che fanno sesso. Ed è molto sensato che facciano festa coi loro corpi per dirsi che è bello stare insieme. Ma non sempre possono essere amore insieme in quell'incontro così speciale, perché si farebbero del male. Devono prepararlo. Devono proteggerlo, custodirlo, crearlo un po' per volta quell'incontro. E poi quando finalmente se lo possono permettere, sapere di nuovo che l'amore c'è davvero. E poi di nuovo uscire dall'abbraccio e andare per la strada, andare a lavorare e far pasticci, sbagliare, tradirsi e poi rischiare di nuovo. Non è che ci si tradisce soltanto a letto con gli altri, ci si tradisce in mille modi. Ma questi noi portiamo a letto, quelli che ci hanno traditi sono tornati e dicono: io voglio ancora essere amore con te, invitami di nuovo. Questi sono i nostri sposi, non delle persone astratte che pensano solo a noi con amore. sarebbe persino inquietante, non potremmo stare loro vicini, saremmo sempre completamente inadeguati. Ma no, infatti è la stessa pasta nostra. E qui vi parlo anche da clinico, qui si rischia la sofferenza mentale. Tanto che ci sono persone che ancora non si sono permesse di fare l'amore, che fanno dell'ottimo sesso, dentro una buona intimità, in un legame ragionevole. E guardate, non è roba da buttare, è roba da offrire, è una meraviglia. Però resta una nostalgia dentro di noi, come dire, ma non era tutto, voleva ancora qualcosa. Ecco, noi dobbiamo rispondere a questa voce antica che ci dice cerca ancora. Però qualcuno non può davvero, deve prima prendersi cura di sé e poi rischiare così tanto. E qualcuno non può più, è stato troppo ferito, ha rischiato troppo. E la speranza che noi dobbiamo portare e soprattutto testimoniare è che invece c'è ancora spazio, forse l'ultimo bacino, ma insomma c'è ancora spazio. Se no, diamo ai nostri figli una testimonianza terribile, le nostre coppie che non funzionano sono una catastrofe per loro, non perché ci maltrattiamo, possiamo essere gentilissimi, ma perché non vedono la testimonianza di chi fa l'amore, di chi rischia l'amore. E chi rischia l'amore si è anche tradito, anche sbagliato, ma devono vedere che si può insistere. E quando non ce la facciamo più, dobbiamo affrontare un problema complesso, difficile, e nonostante questo, la nostra comunità deve dare ancora speranza a tutti, ai figli e a chi non ce l'ha fatta, perché ce la farà ancora, un altro, forse con un'altra persona. Ma qui tocchiamo la parte morale, di cui io non sono più capace di discutere, ci sto provando io per me, e già faccio una fatica terribile, figurate un po' se so dirvi qualcosa. Per chiudere questa riflessione, questi incontri diventano storie, di due si dice hanno una storia insieme, e forse è la cosa più alta che possiamo dire di due persone. Possiamo dire che sono sposati, ma se sono sposati e non hanno una storia non vale. Ciò che vale è che hanno una storia, perché la storia è di per sé generatrice, non tutti riusciamo a fare bambini, ma non importa. Riusciamo tutti a generare, perché le storie generano senso e significato e ne lasciano traccia nel mondo. Qualcuno lo farà sotto forma di un bambino, qualcuno no, ma noi siamo traccia feconda comunque. E le storie hanno un potere incredibile, quello di trasfigurarci. È ciò che ci permette di tornare a casa, soprattutto chi tra noi è più vecchio, e ancora vedere degli occhi che brillano, persino di desiderio. E torniamo a casa un po' mal ridotti. Ci siamo conosciuti 30-40 anni fa, quando eravamo molto più presentabili ed eravamo un vero oggetto di desiderio quanto a corpo. E adesso così, è anche più no che sì. Eppure qualcuno ci aspetta e gli brillano gli occhi. Gli brillano gli occhi di un desiderio che supera addirittura quello che ha avuto per quella ragazza o per quel ragazzo. Ma dall'esterno non si può capire, se voi spogliate due vecchi e li mettete in un letto, dovete coprirli, mi dite, non fate così, copritevi, non è spettacolo, ma se siete uno di quei vecchi va bene, va molto bene, perché in quelle rughe, quei tessuti collassati, in quel piccolo disastro che diventiamo, noi andiamo a cercare la nostra storia, la troviamo lì, e lì ci trasfiguriamo. Okay. Che non è Alzheimer, è proprio la trasfigurazione potente. Estendete questo alle persone disabili, alle persone con sofferenza mentale, agli ultimi, no? Dice, chi lo può volere? Chi ha una storia con lui lo può volere, e lo può volere tanto. Perché sono le storie che ci portano questo nella vita. Siamo dei grandi narratori, questo ci separa da tutti gli altri. Con gli altri animali abbiamo condiviso quasi tutto il racconto che vi ho fatto fino adesso, e ancora lo condividiamo. Abbiamo a casa cani intelligenti, affettuosi, sensibili. Spesso torno a casa, l'unico che fa la cosa giusta è il mio cane, che capisce, ma capisce, distingue. Ok? Però lui non racconta. Noi raccontiamo, noi generiamo, noi mettiamo la traccia del senso, del significato, e tra l'altro non c'è più delle parole, bastano gli occhi, bastano le mani per raccontare. Anche gli afasi ci raccontano, anche chi non ha mai imparato a dire una parola, racconta con la sua vita perché ha la mente del narratore. E il sesso diventa pienamente umano in un racconto. Tanto che a volte in questo racconto ci viene la vaghezza, il desiderio antico di invitare qualcuno. Siamo in due, potremmo anche essere più numerosi. E pensate di nuovo alla meraviglia. Torniamo al corpo, e non certo a un ragionamento, e nel corpo facciamo un bambino. Siamo poi sempre lì a fare le cose importanti. Scriviamo i libri, posiamo la penna, e ciò che è importante andiamo a farlo nel corpo. E questo corpo misterioso, che genera vita, i biologi l'hanno capito come si fa, Però non è quello che volevano capire. Cioè, ci hanno fatto vedere il meccanismo, ma non hanno potuto toccare il mistero di questo meccanismo. E noi andiamo a farlo, questo mistero. E invitiamo qualcuno, con una garanzia. L'unica cosa certa che sappiamo quando facciamo un bambino è che sconvolgerà la nostra storia. È sicuro. È l'unica. Non sappiamo come sarà. Che carattere avrà. Quanto sarà alto, che occhi avrà. Però ci sconvolgerà la vita. Questo sì. E vogliamo farcela sconvolgere perché mi sembra adesso chiaro che la nostra sessualità è tutto un rischio. Dal gioco, forse mi prendo una malattia, forse mi lascio ferire. Al legame, forse mi incastri, poi come faccio a uscire, poi mi abbandoni, no? All'invitarsi, vieni da me, altro rischio terribile, al fare un bambino, mica so chi è, eppure già lo chiamo, dice vieni, non ho ancora un volto, non ho ancora un gesto, non ho ancora uno sguardo, però ti dico vieni nella nostra storia. Questo, secondo me, è diverso dal riprodursi, anche se dal punto di vista fisico è la stessa cosa, cioè è sempre un bambino che viene nel mondo, ok? Però l'esperienza del riprodursi e l'esperienza del fare un bambino sono diverse, e per fare un bambino sì, ci vuole la casa, meglio se al bagno, i vestitini, poi per dargli il latte, eccetera, ma per fare un bambino ci vuole una storia, se no non può abitare il mondo, se non è invitato in una storia quasi muore. Anche se lo alleviamo, non ce la fa. A parte che vada subito lui a farsene una, ci prova, con tutti quelli che incontra. Meglio se però c'era una storia per lui, pronta per lui, da sconvolgere e da riscrivere. Questo è il massimo con cui possiamo invitare qualcuno nella vita. Una storia, pensate a me. Ecco, questo è il racconto. Due istruzioni per l'uso. Poi se volete apriamo un po' di conversazione tra di noi e poi passiamo alle domande come si fa con i ragazzi. Prima istruzione per l'uso. Questo non è un modello, cioè non è una guida per l'azione. D'accordo? Non bisogna imparare a fare così. Questa è una mappa per costruirsi un viaggio, per disegnare un cammino e per non perdersi troppe volte lungo il cammino. L'uso che possiamo farne è soltanto quello di una cartina per viaggiare, ok? Appena incominciamo a immaginarlo come un modello da copiare, è finito tutto, è un disastro. Nessuno è un testimone così efficace per dire usa la sessualità come me. Questa è anche una buona notizia, vuol dire che ognuno di noi ha la sua sessualità, non deve omologarla, d'accordo? Però deve provare a non smarrirsi troppe volte nel cammino, e la mappa può aiutare in questo senso. Posso iniziare dal gioco, posso iniziare dall'avere un bambino e poi domandarmi che senso ha. Ci sono bambini, sono venuti al mondo così, non li abbiamo chiamati ma dopo li abbiamo accolti. Posso incominciare innamorandomi, posso incominciare parlandoti. Non importa da dove inizia questo racconto. L'unica cosa importante è ognuna di queste dimensioni ci fa umani. Se rinunciamo a una di queste dimensioni, siamo meno umani. Ok? Non riusciamo a mettere nelle nostre carezze tutte le volte tutte queste dimensioni. È un andare verso, con una guida nella mente. Quindi l'unica cosa importante della mappa è non accontentarti, lo diremo per gli adolescenti. Inutile convincere un adolescente che fare sesso non va bene. Io non ci sono mai riuscito, non so, non hanno convinto me, no, non lo so. Però possiamo convincerlo che è troppo poco. Questo sì. Possiamo dirgli viviti la vita un po' come vuoi, è la tua. Perché ti devi accontentare a 20 anni? Perché devi accontentare a 15 anni? Mi dici, ma accontento a 80 anni? Io direi, no, prova a piantare ancora una vigna. Chi lo sa? Ok, non importa. Magari non raccoglierai i tuoi frutti, tu pianta una vigna, però 80 anni. Si può a 15 anni dire io non pianto più vigne. Prendo questo e questo mi soddisfa. Mi spiego. Ecco, questo è il senso della mappa. Come la percorriamo è roba nostra. Che la dobbiamo percorrere potrebbe avere a che fare con il nostro essere persone umane. Togliere dimensioni vuol dire ridurre l'umanità di ognuno di noi. Allora, questa è la prima indicazione, non modello, mappa, che ci ricorda ciò per cui siamo al mondo quando costruiamo una carezza. Seconda istruzione, non usate mai questa mappa mentre fate una carezza. Rovinate. Okay. Smontare una carezza vuol dire distruggerla. Quindi mentre fate una carezza vale solo l'immediatezza. Quando Renzo ha detto a Lucia, stasera ti dico facciamo l'amore, lei gli ha detto, non vale. Non puoi farlo apposta. Se nasce dal tuo cuore, mi piace. Se no, risparmiatelo. È inutile che smonti la carezza dicendo questo sarà amore. Fallo. Poi viene bene, non viene, ci proviamo. Ok? Quindi, mentre siete tra le braccia del vostro amante, solo tra le braccia del vostro amante. A che servono le mappe? Prima e dopo. Posso rifletterci. Anche quando non ho ancora un amore. Ed ecco come si possono accompagnare bambini, adolescenti, e poi fidanzati, e poi coppie nel loro cammino. Poi li lasciamo da soli, in pace, nelle loro carezze, e poi dopo la carezza posso usare una mappa per domandarmi che cosa ho trovato in questa carezza, e che cosa mi manca ancora, e dove lo posso cercare, con chi e come. Questo è l'uso della mappa. Mi raccomando, prima e dopo, mai durante che sciupiamo. In modo irreversibile, la carezza è perduta. Dentro alla cornice che adesso abbiamo provato a condividere, mettiamo adesso gli affanni, i dubbi, le domande. Soltanto prima di procedere, proviamo a dirci se vi sembra sensato usare questi riferimenti oppure no. Anche perché non sono veri. Al massimo sono verosimili. È un nostro tentativo, non è verità rivelata. È il nostro tentativo di leggere le cose. Quindi possiamo metterci d'accordo, soprattutto anche portando il nostro disaccordo sotto forma di dubbio, di critica, di altri pensieri, eccetera. Quindi la domanda semplice è, ci state? Se non ci state, parliamone, perché sennò ci impegniamo in un discorso con una premessa inadeguata. Temo il silenzio assenso, ha fatto danni di ogni tipo, però possiamo far come se. Faccio la seconda parte della domanda. Ci state bene? Perché starci è una ragione di testa. Starci bene è una ragione di cuore, no? Che vuol dire? Se io dico che giocare è bello, mentre lo dico sto bene. Se dico che toccarsi è bello, mentre lo dico sto bene. Se no ci sto, ma non ci sto bene. E i ragazzi se ne accorgono. Ok? Perché sono molto più interessati a come stiamo che a quello che gli diciamo. No, sono sempre lì che fanno il monitoraggio, vogliamo sapere. Poi ci ascoltano anche un po', no? Ma come stiamo gli interessa? E allora di tutto il nostro discorso sul sesso prendono come siamo stati, per questo è importante capire se ci stiamo. Beh. Che si fa? No, perché la questione è che poi noi dobbiamo andare a parlare agli altri, forse per noi, nel senso, sono fatti miei, adesso me ne torno a casa, tu hai detto, va bene, ma qui stiamo facendo solo un transito verso altri che non sono da noi, è qua stasera, no? E quindi se voi vi mettete come veicolo, come messaggeri di qualche cosa, fa la differenza se ci state bene o male. Non so. Proviamo sul pratico, vediamo che effetto fa. Proviamo. Partiamo da qua. Queste sono le loro domande. Togliamo una, le leggo, non importa, fidatevi. Vedi. Ah beh. Qui siamo terza media di una scuola cattolica di Torino. Ci gode tanto una donna con la lingua di un uomo nella vagina? Oh, si può discutere. Più complessa invece questa questione. È vero che lo spermatozoo ha il sapore di liquirizia? Voi provate a rispondere a questa domanda. Non potete fargli leggere nulla, perché non ci sono pubblicazioni a proposito. Quindi potete scegliere tra sì, no, non lo so, e sono tre notizie che date di voi, non degli spermatozoi. Ok. La domanda pestifera, se ci pensate. No? Di solito dice ne parliamo un'altra volta, ma non va bene neanche qui. Qui siamo invece un altro fronte. Per quanto tempo l'uomo e la donna possono resistere a fare l'amore? Anche questo. Più pragmatico, quanti buchi ha la donna? Sempre in terza media. Qui siamo sicuramente a Torino, vi spiego perché. La domanda è: si riproduce lo sperma in quanto tempo? Si possono avere più orgasmi con un pieno? Qui c'è una famosa fabbrica di automobili, detta la cultura anche sessuale della nostra città. Ok? Sì, ci fanno sorridere, però poi dobbiamo rispondere e lì si ride di me. Ok. E qui invece cambia molto il tono. Qui siamo in una seconda istituto tecnico. Siamo sempre a Torino, in un contesto molto difficile. Sono quasi solo ragazze in questa scuola e il tono della conversazione di fronte ai loro professori era più o meno questo. Senta, mentre c'è, ieri sera ho fatto un pompino al mio ragazzo, posso essermi presa l'AIDS? Questo era apertis verbis in assemblea, ok? Questa dolcissima ragazza invece si pone tutto in un altro modo, in quella classe, erano tre classi insieme, e dice: senta, io non riesco proprio a trovare il buco di cui lei parla, sono vergine e ho le mestruazioni, dove sarà mai? E poi c'è scritto in stampatello maiuscolo: rimprovero. Secondo me non è giusto toccarsi internamente per capire come siamo fatte, perché è contro le leggi naturali e morali. Pone una bella questione, sotto forma di rimprovero. Qui siamo invece nell'angoscia. Vero che quando si è incinte, da poco tempo, per abortire, bisogna mettere i piedi in una bacinella con acqua, ammoniaca e un po' di sale? O tutto questo serve solo per togliere i calli? È terribile, questa domanda. Pensate da dove può nascere una domanda così. Qui andiamo invece, ne leggo ancora due o tre, andiamo invece di nuovo in terza media. Molto bella, questa io la trovo raffinatissima. Durante il bacio in bocca, la lingua cosa fa? Sta ferma o cosa? No? Che è te? Chi non ci ha pensato almeno una volta? Come bisognava fare? Di altra tendenza, molto più cruda, invece la domanda, fare l'amore con una vergine è più godimentoso che con una sverginata? Punto di domanda. E qui vedete ciò che adesso discuteremo, l'importanza del linguaggio quando si parla con i ragazzi. Cosa si prova? È la domanda. Cosa si prova? Quando si scopa per la prima volta? Oppure, anche questa è tenera, anche se un po' più sboccata. Come si fa un vero bocchino? Scusi, ma non so il termine scientifico. E vabbè, è giusto. Ve l'ho detto io, se non sapete i termini scientifici, usate quelli che sapete. No? E invece, anche se due persone si amano molto e fanno l'amore non solo per piacere fisico, ma proprio perché si vogliono bene, può capitare che a volte uno si senta un po' in colpa per ciò che ha fatto, o si vergogni dopo averlo fatto. Da che cosa può dipendere? Questa è una domanda complessa, no? Che pone le basi della questione fare sesso, fare l'amore, e vedete, insomma, qui siamo di nuovo in una seconda superiore. Adesso l'idea sarebbe attrezziamoci per rispondere a queste domande. Poi possiamo scendere ancora di età, il turbamento aumenta perché in quinta elementare le domande sono più o meno queste, a volte anche peggio, quanto a termini, mi spiego. Voi dite, queste domande come vengono fatte? Vengono fatte chiedendo ai bambini o ai ragazzi di scrivere su un foglietto anonimo quello che vogliono sapere. Okay. Usando qualunque termine, usando qualunque linguaggio, senza farsi problemi, e questo è quello che ci chiedono. Allora, proviamo a fare qualche premessa di metodo. Intanto, perché fare educazione sessuale? Perché ogni 10 persone che incontrate per la strada ce ne sono 4 che stanno male con la loro vita sessuale, troppe. La ricaduta è drammatica. 4 vite sessuali malfunzionanti ogni 10 sono 4 coppie a rischio ogni 10 coppie. Ok? E sono sofferenze per i bambini, problemi a scuola per i bambini. Sono costi sociali importanti, anche economici. Ok? E quindi è proprio un ottimo investimento l'educazione sessuale, un buon modo per pensare al futuro nostro e dei nostri figli. Non sono 4 su 10 con problemi sessuali conclamati, in questo 40% è compresa tutta l'insoddisfazione sessuale, ma è quella che produce i guai. Poi all'interno dell'insoddisfazione ci sono i disturbi della sessualità come il vaginismo, l'eiaculazione precoce, la disfunzione dell'erezione, eccetera, che sono una quota ovviamente minore rispetto alla popolazione generale, ma 4 su 10 sta male, questo è il punto. L'idea allora è parlare con i bambini, sicuramente perché da grandi non si prendono l'AIDS o l'epatite virale, poi ci sono mucche di altre malattie, ma insomma queste sono le più nominate. Sicuramente perché non facciano guai con le loro vite, con gravidanze al momento inopportuno, ma principalmente perché possano costruire buone carezze. Questo dovrebbe essere il principio di ogni discorso che facciamo con loro. Qui c'è un equivoco di fondo. L'idea è, no, dobbiamo informare. No, dobbiamo formare. Dobbiamo dar forma a un discorso, a un progetto. Quale? La loro, non la nostra. Nessuno si fa formare da un altro. O per un po' e poi si ribella nel modo più violento e più terribile. oppure muore di un disturbo dipendente. E quindi sono due vie terribili. No, noi diamo le nostre mani per formare storie che costruiscono loro. Mettiamo solo un po' di buon materiale e un po' di custodia mentre sono in pericolo. Allora, vedete, se tutte le volte che parliamo con un bambino, con un adolescente, con un adulto, con una coppia di fidanzati, noi pensiamo di dover portare un'idea che sia dentro a una carezza, perché quella carezza sia migliore, intanto più festosa, dia più piacere a chi la fa e a chi la riceve, e poi più riconoscente dell'altro, sia sempre una carezza rivolta a una persona, e poi una carezza che fa crescere ancora un po' la loro storia. Beh, se noi abbiamo in mente questo, stiamo facendo educazione sessuale, se no stiamo passando informazione, ma non ha nulla a che fare con l'educazione sessuale passare informazione. E vorremmo che questo 40% diminuisse, magari arriva al 10%, ma sapete cosa vuol dire? Tre famiglie con buone carezze, quasi salvate, ogni 10, sarebbe da far festa. Chi deve fare educazione sessuale? Questo è il motivo. Ma chi poi la deve fare? Vabbè, siamo qua. Molti di noi sono genitori, qualcuno è qui perché fa l'insegnante, qualcuno è qui perché fa l'insegnante e il genitore. Ma insomma, sono sempre mestieri educativi. Come ci dividiamo il lavoro? Allora, l'idea di partenza è molto semplice. I primi a fare educazione sessuale sono obbligatoriamente i genitori, perché sono i primi a tenere in braccio un bambino. Genitori, familiari, insomma le persone che vogliono bene a quel bambino. Lì comincia l'educazione sessuale. Il discorso che abbiamo fatto la volta scorsa e che vi ho riassunto prima è educazione sessuale. È come facciamo l'amore senza che il sesso ti ritorni indietro e limitando i tuoi tentativi sessuali verso di me. Ok? In modo che l'amore sia bello, pulito, forte, incarnato, lo sai, c'è proprio, ma non ti fa male e ti fa crescere anche dal punto di vista della sessualità. Questa chi la può fare? Qualcuno a scuola? Uno che viene dall'ASL? No, la può fare soltanto mamma, papà, la nonna, lo zio, chi volete, insomma, noi. Qua. Adesso voi siete specialissimi, perché è la seconda volta che passate 3 ore di sera, l'ora più scomoda della giornata, tutto quello che volete. Quindi lo so che è sbagliato dircelo qui, che siamo tutti già molto consapevoli. Però quando facciamo questo discorso, la maggior parte dei genitori dice io no. Io non me la sento perché non sono preparato. E quindi vorrei qualcuno più preparato di me. Ok? E comincia a operare un meccanismo di delega. E dice, sarà ben qualcuno che sa fare sta cosa? No, io no, io non conosco i termini, non ho studiato tanto, poi non ho mica studiato biologia, no? Perché quando voi accarezzate qualcuno pensate mica ai suoi mitocondri. No, cioè non è... Cosa me ne frega della biologia, delle cellule, eccetera. Non ci fossero sarebbe morto e quindi è meglio che abbia i mitocondri funzionanti, però non lo sapete nemmeno. E quando mamma accarezza papà, è chiarissimo cosa sta facendo, anche se non è biologa. No? E allora è un modo per tirarci indietro. E non dovremmo tirarci indietro. Noi che cosa stiamo facendo? Stiamo solo cercando di riappropriarci di un privilegio, che è quello di accompagnare nei primi passi i nostri figli a esplorare anche la sessualità. È molto bello, è anche difficile, ma sapete, anche la giustizia è difficile da esplorare. Provate a convincere due fratelli che litigano, no? Non lo so, a volte è meglio parlare di sesso che di giustizia, no? Ci si mette d'accordo molto prima, quindi è difficile, ma lo possiamo fare. Quindi l'obiettivo che ci stiamo dando è riappropriarci di un sapere che abbiamo e a volte dimentichiamo di possedere. Non c'è bisogno di aggiungere conoscenze particolari, poi, va bene, una in più non fa mai male. Magari anche in queste due serate ci aggiungiamo qualche idea. Però già quello che c'è è sufficiente, per un bambino va benissimo. Spiegate quasi tutto ciò che non sapete bene da specialisti. No, però glielo spiegate. Cioè, se mi chiede, ma come si fa a fare un tavolo? Dice, beh, guarda, è imbarazzante, devo chiamare un falegname. Dice, ma dai, più o meno, no? Adesso, io poi non lo so fare, se lo faccio io non sta su, no? Il falegname è bravo, ma perché devo chiamare un falegname? No? dai da bere, chiamiamo l'idraulico, ma no, ti do l'acqua io, no? Se non arriva più l'acqua ti do da bere, chiamo l'idraulico. Io c'è un pezzo che non funziona. Adesso vediamo se abbiamo tutto quello che ci serve, però i primi siamo davvero noi. Non da soli, questo mai. Essere da soli è la peggiore idea che possiamo coltivare. Noi siamo, ma già da milioni di anni, vocati alla socialità, siamo comunità. Poi siamo anche comunità di narratori, di pensatori, di gente che si domanda il senso delle cose. E quindi è una comunità che educa un bambino e la sua sessualità. Quindi cominciamo a parlare con la maestra alla materna e diciamo, e col sesso come la mettiamo? Lei che gli dirà? Avete un progetto, un programma, non so, per aiutare un bambino a distinguere chi lo sta abusando da chi non lo sta abusando, chi glielo fa? Per esempio le maestre potrebbero, certo, persino meglio di noi, che sembra quasi brutto dire a un bambino, guarda che qualcuno gli può toccare male se è nostro figlio, ma se dice la maestra va bene, no? Alla distanza giusta, per spiegare che il mondo non è proprio tutto come dovrebbe essere, e quando un bambino se ne accorge deve subito sentirsi protetto, era assicurato che non è lui quello sbagliato, chi gli sta facendo una carezza cattiva che sta sbagliando. Questo però a che età glielo volete dire? I bambini abusati hanno 3, 4, 5 anni, quindi li dobbiamo incominciare a far riconoscere a 3, 4, 5 anni, no? E poi sono ancora molto a rischio durante le elementari, nei primi anni delle medie, poi si attenua questo rischio perché diventa una violenza più che un abuso, anche se può continuare il rischio di abuso. E allora ci mettiamo d'accordo con la comunità e diciamo, vabbè, a casa abbiamo fatto le cose essenziali e continuiamo. E a scuola fatene altre voi. Poi ce le raccontiamo, voi ci dite cosa state facendo, intanto ci chiamate, no? Ci dite, beh, abbiamo parlato di... Così non arrivano a casa che ci fanno domande strane, no? Si fa un po' di offerta formativa, la si descrive, si discute, si parla con rappresentanti dei genitori, ogni tanto si fa proprio una riunione con tutte le famiglie, e così si va avanti insieme. Okay? Si fa dell'eccellente educazione sessuale nella scuola materna e nella scuola elementare, adesso si chiamano primaria, eccetera, ma insomma io continuo a chiamarle come una volta, tanto ci capiamo. Va bene? Però anche gli insegnanti hanno i loro trucchi. E intanto fanno delle deleghe strane tra di loro, dice sì, chi lo fa? Vabbè, scienza e religione, ok? Questa roba strana, perché non lettere? Che tra l'altro c'è molto più sesso a lettere che a scienze. Cioè, se vi prendete un programma di italiano, no? C'è sesso sconfinato, basta andare a cercarlo. E a scienze dopo un po' basta, finito, insomma, no? Un mucchio di apparati che c'entrano poco. Religione, bellissimo, giusto. Però è strano che il sesso, insomma, o è una roba tecnica un po' pericolosa, o si rischia di far peccati, questi due insegnanti sono molto specializzati in queste due proposte, ai bambini suona storto. Allora, intanto tutti gli insegnanti, non tutti, no, non è vero, tutti gli insegnanti che se la sentono, perché devo fare una cosa che mi suona male, no? Che se la sentono e magari che hanno anche fatto dei percorsi per dirsi come. Ok? Ma se tutti gli insegnanti che se la sentono potessero farlo, ci sarebbe la scuola coperta. Però anche gli insegnanti poi truccano un po' e dicono: no, ma non lo facciamo noi, chiamiamo l'ASL. Che lì ci sono gli specialisti veri. E lì ci sono quelli meno adatti, non conoscono i bambini, non sanno a chi stanno parlando. Sono bravissimi per curare malattie o prevenire malattie, tendenzialmente. Se viene l'ostetrica è la roba più romantica perché fa nascere i bambini. Mi spiego, ma perché un ginecologo a parlare di sesso? Che c'entra? Perché conosce l'apparato genitale. Ho capito, ma è come se un meccanico fosse per sua natura un grande viaggiatore. Non c'entra nulla, no? Magari lo è, nulla vieta che un ginecologo sia un eccellente educatore sessuale, ma non in quanto ginecologo, quanto Piero, ok? È così il meccanico. Equivochiamo, cioè riportiamo sempre al trasferire notizie. Certo che è più bravo a spiegare l'apparato genitale di ognuno di noi che fa un altro mestiere, ma non è questo che interessa per far buone carezze. Tra l'altro appunto c'è poi sempre l'insegnamento di scienze a cui si può deputare la parte più precisa, sono fatti apposta o facciamo. Qui c'è un equivoco che va superato. Ci prepariamo piano piano, cerchiamo di farcela. Anche se non sto criticando, faccio fatica anch'io, perché siamo una comunità che non ha ancora un discorso condiviso, no? E quindi ci dobbiamo provare un po' all'avanguardia, no? Cioè, non, stiamo esplorando e facciamo anche tanti errori. Per cui diciamoci, di gli errori che facciamo. Una cosa ancora sul chi, e poi andiamo sul come, e poi proviamo a rispondere alle domande, ma dopo un po' di pausa. Sul chi, attenti a noi genitori, che dobbiamo metterci nella posizione giusta. Coi bambini perfetto, sempre. Con gli adolescenti no. Diventiamo per un periodo di tempo abbastanza lungo gli adulti più inadatti a parlare con loro della loro sessualità. È molto sensato che continuiamo a parlare con loro della sessualità, anche dando buone pratiche, qualche regola, persino delle norme da rispettare, che saranno poi eluse, non verranno rispettate, ma avere delle norme da rispettare è sempre meglio che annaspare nel vuoto, Però non della loro. Della loro è meglio che parlino altri adulti, insegnanti, altri parenti, amici più grandi e così via. Quindi la scelta del chi, mi raccomando, in questo senso. E poi torneranno a parlare con noi di sesso, ma da grandi è poco, perché rispetteremo le reciproche intimità. E poi perché è sempre complicato pensare che papà e mamma facciano sesso davvero, diciamo. Così strani, come faccio a immaginare i nudi che fanno sesso, no? Quindi è poco rappresentabile come pensiero, e pazienza, no? Quindi non ci scambieremo tante notizie. Quando si scambiano molte notizie sulla sessualità tra genitori e figli, c'è più da pensare a un problema che a una storia ben riuscita. Non vuol dire che è un problema in assoluto, però c'è da domandarsi perché viene così facile, ok? Che poi c'è il rischio che mamma si faccia un po' consolare dalla sua figlia, già grande, o forse neanche tanto grande, e si sfoghi con lei. Questo ai figli non deve capitare mai. Okay. Dove lo mette papà mentre mamma si sfoga con lei? Lei deve poter avere libero accesso a mamma e papà, e deve costruirsi i suoi sentimenti con mamma e con papà, senza essere implicata o implicato, se è un figlio, dentro quei giochi. Okay. E ogni tanto è l'unica a cui parlare, lo so, è umano, viene da dirgli due cose. Poi, sapete, li facciamo diventare grandi in una volta sola, certo che ci ascoltano. Ma è sempre trattata come una piccola deficiente. Adesso mi racconti addirittura di papà, vuol dire che sono grande anch'io. Ma si trovano addosso una montagna, non la possono sostenere, quindi via. Okay. Confidenze con gli amici, non con i figli e con i genitori. Non generalizzate, ci sono sempre situazioni particolari molto ben condotte. Volevo mettervi di fronte a un rischio, a un pericolo che si può correre. E poi, parlando di che cosa e con quale linguaggio. Poi facciamo un po' di pausa. Parlando, come si parla a casa? In modo semplice, con un linguaggio familiare. Voi dite, ma le parole giuste non sono quelle scientifiche? Giuste per cosa? Tra due amanti, difficile, no? Tesoro, porta il glande in direzione cranio caudale verso il vestibolo, se ve lo dicono. No? Mettilo un po' più in basso, va? Da lì non ci passi, più in basso, no? Sempre tesoro, no? Però non devi andare su roba complicata. Allora, se noi vogliamo costruire carezze, dobbiamo insegnare a parlare come si fa un referto medico, no? Dobbiamo insegnare a parlare come parlano due amanti, quando proprio hanno bisogno di parlare. No, se lui continua a sbagliare il posto, dopo un po' che lei prova a farsi capire col corpo, glielo dice, tesoro mio zuccone, lì non ci passa, va bene? Va bene, se lo dicono. Questo è più o meno il linguaggio. Mentre cerchiamo di togliere... voi ridete, ma mica il radar il pisello, cioè non sa dove andare. Poi si impara, ma prendetene due in una panda. La prima volta vedete un po' se sanno orientarsi. Io ho sempre in trattamento qualcuno con un disturbo dell'erezione, transitorio ma grave, dovuto all'impossibilità di parlarsi, no? Al dover sapere già come si fa. È un disastro. Okay? E quindi magari se gli abbiamo insegnato a dire parole, ogni tanto se la cavano con le parole, quando le mani non servono più, non sono più capaci di dare indicazioni. Mentre il linguaggio volgare lo togliamo, ma non rinunciando, vedete che le domande le fanno con linguaggio volgare, facciamo la traduzione da linguaggio volgare a linguaggio familiare e ogni tanto dal linguaggio familiare al linguaggio scientifico, che ci sta, perché un po' di linguaggio scientifico è bene conoscerlo, se no siamo in imbarazzo. Dal ginecologo devo parlare con linguaggio scientifico, così sta al suo posto, se no mi sento troppo vicino. Materiali didattici? È la tragedia. Non ho il materiale didattico? Non posso fare lezioni. Come glielo spiego se non ho i materiali? Che poi adesso non so neanche più i libri, adesso devo avere almeno un video. Mica viaggiamo con i video per fare educazione sessuale. Ce lo chiedono all'improvviso. E quindi l'idea è molto semplice. Il materiale didattico sei tu. Non basta, ci sono anch'io. Non basta, ci sono altri bambini e altre bambine. Questo è materiale didattico. Va bene? Partiamo da loro, dai loro corpi, dai loro sentimenti, dalle loro emozioni, dal loro capirsi, riconoscersi, distinguersi. Va bene? Questo è materiale didattico. I loro racconti, le loro storie. Un po' di colori, se proprio vogliamo colorare le emozioni. No? Un po' di musica, se vogliamo far giocare in allegria qualche pensiero, ma sostanzialmente dei racconti, li fanno loro, bellissimi. La prossima volta ve ne porto a vedere di fatti dai bambini, proprio di bei racconti sul sesso costruiti da loro con le loro maestre. Okay? Quindi il materiale didattico, se non c'è, si costruisce, ma è già lì, presente, in classe, a casa, in famiglia. Se poi proprio volete usarlo, allora attenzione. Un video va usato dopo aver fatto lezione, non per fare lezione. In un video fate vedere ciò che loro hanno immaginato. Così ciò che hanno immaginato resta nel loro cervello. Se no il video li emoziona, li attraversa e lascia poca traccia. Ma se guardano un video con quello che hanno già cercato di capire, seguendo il vostro racconto, poi il video fa da fissante, come mettere su un carboncino. Un po' di fissativo che così lo tiene fermo lì nel tempo, ok? Non fidatevi, ne aveva fatta anche una università di Torino abbastanza significativa, non fidatevi di quanto le tracce dei materiali didattici, soprattutto degli autovisivi, rimangano nel tempo, sono le più veloci a deperire. Sapete cosa rimane? Libri letti e racconti condivisi. Queste sono le due tracce più difficili da perdere. Mentre quasi tutto ciò che vediamo in movimento ci emoziona molto mentre lo vediamo, ma a parità di contenuto dura meno nel tempo, ma pazienza, ma soprattutto non va in rete, cioè non entra nel nostro sapere, resta un fatto molto più isolato. Okay? Questa diciamo, è la ricerca tecnica, no? Che ci dice sì agli audiovisivi dopo per appoggiare ciò che abbiamo provato a costruire con la mente, con le immagini. E se non ci sono, pazienza. Tanto poi vanno a casa e hanno il loro corpo, come quella che dice, senta, io non trovo proprio il buco di cui lei parla, perché era ben andata a cercarlo. Okay. Va bene. E parlare di che cosa? Ma, modo molto semplice, di quello che vogliono sapere, no? Partendo dalle loro domande. Perché dobbiamo fare il programma? Ce lo fanno loro il programma. Noi mettiamo soltanto dei vincoli, che ciò che poi diciamo in risposta alle loro domande sia materiale da carezze, vada a finire nelle loro mani, dove mani sta per bocca, occhi, abbracci, giochi, amori. E che partecipi a dare senso alla loro sessualità, Va bene, solo ciò che può essere trasformato in un significato. Noi proponiamo nel nostro programma costruito da loro. Quindi loro fanno le domande e noi costruiamo risposte che siano sempre vincolate al significato. Io vorrei almeno 4 significati per ogni risposta. Immaginiamo che una persona voglia sapere com'è fatta la vagina. Una bambina. Più spesso un adolescente. Una bambina si accontenta di una spiegazione molto semplice. Lo vedete perché alla terza parola che le dite si distrae e quindi non le interessa più. Ok? Però le prime due erano importanti. Quindi fate sempre misurare da loro la quota di conoscenza che in quel momento il loro cervello sta chiedendo. Quando vedete cambiano discorso o si mettono a guardare in giro o a cantare, è un segno. Per quella volta basta così. Oh. Quindi una bambina si accontenta di una spiegazione molto semplice. Meglio se è già adatta a continuare il racconto quando avrà 15 anni. O 12. O 20. Dipende da quando le viene in mente di approfondire la cosa. D'accordo? Quindi se non mettiamo troppi errori nei racconti che facciamo ai bambini, dobbiamo correggere meno errori quando poi faremo il discorso con gli adolescenti. Ma se uno vuole sapere cos'è la vagina, che cosa gli possiamo dire? Se prendiamo un libro di medicina, la cosa è devastante, giusta, eh? Punto, la scienza che dice le cose giuste. Dovremmo dire che nel corpo di una donna c'è una cavità virtuale, muscolo-membranosa, le cui pareti in stato di riposo collabiscono. E se lo dite a un ragazzo, dice, io lì dentro non ci andrò mai. Perché è una roba che fa impressione. Ha paura. No? E anche una dice, ma ho sta schifezza qua dentro di me. Ah. E quindi non è una strada percorribile. Anche se è la definizione più sintetica e più precisa di quest'organo, va bene, cioè contiene tutti i messaggi scientifici da inviare in poche parole. Concetto di definizione, appunto. Ma è inenarrabile, non se ne può fare nulla a nessuno in questa. Allora dobbiamo immaginare qualche cosa di diverso. Magari dopo l'intervallo poi proviamo, dobbiamo immaginare innanzitutto che sapere della propria vagina serva a conoscerla e a usarla bene. Non ad avercela, ma a usarla bene, stiamo parlando di carezze. Ok? Se no è come il pancreas, uno dice, vabbè, ce l'ho, fa piacere, ma nessuno invita nel pancreas qualcun altro, no? Invece un giorno potrebbe invitare nella sua vagina. Quindi sapere com'è fatta, come funziona per usarla. Usarla può anche voler dire decidere di non invitare mai nessuno. Mi spiego, è sempre un uso. Poi dovrei sapere come sentirmi bella con una vagina tra le gambe. Non che ce l'ho. Ah, certo, ce l'ho. Ma sentirmi proprio bella. E invece un mucchio di ragazzi si sentono così, così. Qualcuna persino che fa un po' schifo, fa un po' senso, puzza. No, davvero. Beh, è un problema, noi li vediamo tutti i giorni questi problemi. Cioè, è proprio un non andare d'accordo col proprio corpo. Quindi, funziona, è fatta bene, la posso usare al momento opportuno, parleremo, e mi fa sentire bella. E poi la posso usare per sentirmi buona. Perché siccome deciderò io come usarla, farò delle scelte e queste scelte mi faranno sentire migliore. E quindi la mia vagina è uno dei luoghi del mio corpo dove io faccio del bene. Okay? O faccio del male. O mi faccio far del male. Eh sì, sono pensate fisicamente, no? Però mi posso far fare del male in tanti modi. E poi c'è un'altra cosa più bella di tutte e tre. Però questi 3 ordini di significati teniamoli sempre in mente quando decidiamo di fare un programma di educazione sessuale. Loro fanno le domande. Noi rispondiamo in modo che si costruiscano carezze e significati. E questi significati devono essere logici, funzionali, etici, estetici e poi devono essere specialissimi, non personali. Tutte le donne hanno la vagina simile a tutte le altre donne. Simili, perché identiche non lo sono neanche per forma morfologica, no? Però sono quasi identiche, molto molto simili. Però non c'è al mondo una vagina uguale all'altra. Perché ogni vagina è una storia. Ed è una storia scritta, spesso da due persone, a volte da più persone. Ma quando voi invitate qualcuno dentro il vostro corpo, non lo invitate in un posto caldo e umido, che già è delizioso per i maschi. Lo invitate dentro alla vostra storia. E gli fate un invito speciale perché gli dite, scrivine un po' con me di questa storia. Qua, con la mia vagina. Non sarà mai più uguale a tutte le altre. E questo è la nostra unicità, che non è in un'area isolata del nostro cervello o in una nuvola tipo anima che ci gira intorno. È proprio dentro di noi che noi siamo speciali. E lo è ogni nostra cellula speciale. Ecco, questo significato a volte lo dimentichiamo. Adesso, quando io per esempio ho ricevuto queste informazioni, tutte queste cose a me non le avevano dette, probabilmente non c'era tempo, non so, era finita la lezione, però non me ne hanno parlato così. E quando parlo con le persone ancora tante volte, no? Incontro persone che conoscono le vagine bene, tipo cavità muscolo-membranose o anche se volete, si può dire che è un comune sacchetto, va bene, no? Però i quattro ordini di significati non sono tutti rispettati. E poi a me dà un po' fastidio che come funziona lo dica quello di scienze, come usarla bene per far del bene quello di religione. Perché? No? Persone, storie di persone, se no facciamo già a pezzi l'esperienza invece che tenerla intera. Ecco, questo è il come. Dopo una breve pausa, se volete, prendiamo un po' di domande e proviamo a rispondere insieme.